lascio solo le luci, le tengo spente anche di notte. Mi sembra assurdo, ma forse dovrei dormire in macchina, vivere una vita di plastica. Che qua io mi sento sola come un cane, non ho da mangiare. Ma perché non mi sposo a questa età? Ti prego, andiamo in chiesa domenica. Io farei di tutto, lo giuro, pur di avere qualcuno. Io molto probabilmente lo penso da sempre. Vi odio tutti, mi chiudo in casa. Comunque uscire a che serve? Non mi diverto mai. Mi ammazza che pago un po' troppo a Milano per un letto. Solo le luci le tengo spente anche di notte. Mi sembra assurdo,